Dimmi i nomi. Dunque, la responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel... Ah, lo sapevo. Ho sempre Ma te l'avevo già detto. No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra te e me. No, è impossibile. Ok. Melanie è andata a letto con Heather. Sì. Heather è andata a letto con Brooke. È andata a letto con Brooke. Sì. Brooke è andata a letto con Nina. E io sono andata a letto con Nina, visto? Wow, sì. Perciò 4, 1, 2, 3, 4 sono le persone che collegano te a me. Sembra che sia un mondo folle e piccolissimo. Folle sì, ma non piccolissimo. The Chart, trasmissione di connessioni, cicli, bicicli, improbabili coincidenze e straordinarie commissioni. Ogni 15 giorni alle 17.15 al martedì autogestito. Eccolo Chart. Ciao. Benvenute. Allora, mentre Pinco litigava litigava col microfono. Io litigavo col microfono, ma perché le ascoltatrici non ci vedono e non sanno che ci siamo ribaltate di posizione dopo 4 mesi. È vero, questa però questa per festeggiare la nostra 10ª puntata. La nostra 10ª puntata, è vero. Il filo mai. La nostra 10ª puntata. Benvenute ascoltatrici, ascoltatori. Insomma, apriamo il martedì femminista e lesbico autogestito anche questo martedì con The Chart, puntata numero 10, come appunto diceva Pinclo. Vi ricordo i nostri diciamo contatti al volo prima di partire: 06 49 17 50, per squillarci, insomma, oppure se volete per il resto della giornata comunicare delle informazioni, degli appuntamenti alla redazione del martedì femminista e lesbico autogestito. E invece se volete ascoltare i nostri podcast avete il nostro blog, che è www.womenchart.wordpress.com, oppure insomma trovateci, cercateci, insomma in qualche modo ci troverete a un certo punto. Sì, sì, sì, ci troveranno. Ricordiamo anche che potete giocare con noi, che qualcuno l'ha già fatto, che è divertente. Fate la vostra chart per voi, se giocate da sole è anche più corta, sono solo 6 canzoni, trovate le connessioni, un po' avete capito come funziona la trasmissione, oppure giocate con la vostra coinquilina, con vostra cugina, con chi vi pare, insomma. Giocate con noi, anche dai. Perché scoprono cose inaudite giocando. Cose si scoprono cose mai viste, non solo rispetto alla musica ma anche rispetto a noi stesse, quindi insomma è un gioco molto divertente anche per i percorsi che scegliamo di... E così le spaventi e non lo vogliamo fare perché si sa, l'inconscio crea sempre dei problemi. L'inconscio gioca brutti scherzi. Allora la domanda è: dove eravamo? Eravamo a Susan Vega. Eravamo a Susan Vega con... una canzone dal suo ultimo disco, che a quanto pare è abbastanza controverso, non a tutti sta piacendo, ma comunque dai, una carriera lunghissima. L'altro giorno li leggevo anche tutte le cose che ha fatto, e anche il fatto di aver fatto una canzone che poi è quella che l'ha fatta diventare famosa, che era nient'altro che una canzone sugli abusi sessuali a minorenni, o comunque quindi a bambini e bambine. Poi lei negli anni ha confessato che in realtà Luca era un personaggio che si era creata per raccontare un pezzo di una storia che le apparteneva, che era sua, quindi insomma anche un'artista abbastanza coraggiosa. Comunque, che se tu senti il brano detto... non sai l'inglese pensi che sia una canzone leggera, legge, perché lei ha questo modo di cantare così leggero, tra l'altro perché soffriva di asma e quindi a un certo punto non può attirare troppo le note, sennò... non può attirare troppo la corda. No, è vero, comunque io sono d'accordo con te, insomma l'album ancora non mi ha convinta tanto, anche cioè l'ho ascoltato un po' di volte, però Susan Vega non è nuova a queste cose, nel senso che nella sua storia artistica, anche quando ha fatto adesso non mi ricordo il titolo dell'album, ma c'era quell'album molto interessante in cui cominciava a mettere dell'elettronica nella sua musica, che il singolo che era uscito si chiamava Blood Make Noise, non so se te lo ricordi. E che in qualche modo era anche un po' un cambiamento rispetto agli album di prima, e effettivamente poi ci misi un po' prima di abituarmi, no? Poi mi piacque molto in realtà, quindi No, ma infatti gli diamo tutto il tempo. Io poi penso sia una grandissima chitarrista. In realtà quando viene qua, quando posso, mi trascino chiunque a vederla, perché trovo che comunque sia una grande professionista, fa dei bellissimi live e suona la chitarra acustica comunque in una maniera molto personale, molto delicata, molto, molto particolare. Insomma, comunque, Susan Vega, tra le collaborazioni di questo appunto ultimo disco, aveva tra le collaboratrici, anzi, c'è pure Gail Ann Dorsey. Gail Ann Dorsey, che sembra una miss sconosciuta, ma perché chiaramente, come molto spesso capita, quelli che in inglese vengono chiamati session musicists, cioè i musicisti da sessione, quindi quelli che preponderatamente incidono su dischi altrui o comunque accompagnano i musicisti tra virgolette più famosi in tour e in tournée, come turnisti, esattamente altro termine che si usa qua in Italia, spesso non vengono conosciuti perché lei suona il basso, prevalentemente il clarinetto, e in realtà è stata una delle persone che è andata in giro per tantissimi anni, ha avuto un sodalizio artistico con David Bowie, quindi mica proprio uno a caso ed è andata in tournée svariate volte con lui, e proprio con lui dal vivo si sono dilettati più e più di una volta a cantare una cover che altro non era che O Superman, cioè quindi una canzone che ha fatto la storia nella musica diciamo sperimentale rock indipendente per la particolarità della sua, insomma, che conoscete, lo sappiamo, che le nostre ascoltatrici la conoscono perché stiamo parlando di Laurie Anderson, comunque è un must delle canzoni degli anni 60-70, penso che anche in questa radio sia passata diverse e svariate volte, non solo al martedì, penso proprio così, e quindi ho colto questa occasione perché avevo proprio voglia di mettere Laurie Anderson, anche lei da noi in Italia penso abbastanza in ombra, tranne che per gli amanti della musica e di tutto quel periodo musicale degli anni 70, è più conosciuta volgarmente come compagna di Lou Reed, ma in realtà una grandissima sperimentatrice musicale, attivista, vabbè, un personaggio a tutto tondo, e a me è capitato di vederla dal vivo negli anni recenti a teatro con questo disco da cui vi farò ascoltare un pezzo che era Life on a String, dove lei ovviamente, lei è una di quelle non so come si dice in italiano la versione femminile, perché al femminile come al solito figurati se c'è la parola semplice, insomma tra quelle che hanno sperimentato con l'elettronica fin dagli anni 70, cioè una prima di Björk, facciamo così, prima di Björk c'era Laurie Anderson. Non solo, cioè non era soltanto un discorso musicale il suo, ma no. Per esempio mi ricordo il suo tour di Home of the Brave, che era appunto quello che conteneva poi il pezzo che citavi tu, che era in realtà un tour in cui c'erano contemporaneamente musica già di per sé sperimentale, ma poi c'erano video, c'era lei stessa che indossava una tuta che suonava, c'era il suo violino elettrico che era campionato per fare dei suoni preregistrati, quindi era tutto un esperimento. Infatti quando l'ho vista io dal vivo a Milano tanti anni fa, lei aveva una postazione che sembrava quella di una navicella spaziale, per cui aveva batterie elettroniche, loop, tastiere, una marea di aggeggi, e poi aveva anche gli strumenti diciamo più classici, appunto tra cui il violino, tra l'altro quel disco si chiamava Life on a String, cioè una vita sulla corda. E niente, questo è Dark Angels da quel disco. A dark angel parachutes down into an abandoned town. I've been looking for a certain white clown. Doesn't look like you're it. You're the only one around, so I guess you'll have to do it, he says. So anyway, how are you doing? I say, actually, I can't stand all the new machines. It's supposed to be all brand new, but it all looks the same. looks like you're bored. It sounds like you're bored. So try this, he says to me. Why don't you get an old beret? And why don't you find an old cafe? And sit at a table and write something new that's never been heard before. Or write your own manifesto. That would do. Just make sure you use a pencil so you can always get it, you know. All the things I bought, I can't believe what they cost. Just a lot of plastic and numbers on my credit card. I'm feeling kind of lost. A world that used to seem so small, I can wrap my arms around it. Now it seems really big and sad. All from your pictures I guess that you were tall, but actually, gotta go now. Che meraviglia, questa era Lori Anderson. E poi una voce meravigliosa. Una voce meravigliosa. E poi io sono stata, ho visto uno dei suoi recenti, tipo 4-5 anni fa, o forse qualcosina in più, dei suoi concerti. E appunto, magari non fa più quello che faceva prima, che ballava, faceva delle cose straordinarie, ma diciamo si è spostata un po' verso la lettura, il racconto, la poesia, la spoken poetry. E i video sempre, ed è comunque ogni volta che si va a guardare, a sentirla, è sempre un'esperienza, non sai mai quello che ti aspetta, perché non è solo un concerto, è sempre qualcos'altro oltre a un concerto. Ma poi lei è una sperimentatrice, mi ricordo che una volta raccontava che si è fatta un anno lavorando in un fast food per vedere insomma quali erano le condizioni di lavoro e come stavano. Una vera anni 60, cioè una di quelle di poche che è rimasta, che nonostante anche comunque successe varie, è rimasta legata a quel sogno degli anni 60. Va. Un bellissimo personaggio, appunto. Tu citavi la sua relazione, che è durata praticamente una vita, con Lou Reed, recentemente scomparso, ne abbiamo parlato, insomma. E pensando a lei, mi veniva in mente una bellissima foto di loro due abbracciati su un pontile di Coney Island, ed è una fotografia del 1995. Mi è rimasta molto impressa perché faceva parte di una mostra fotografica intitolata American Music, di una diciamo fotografa che ci piace moltissimo, Annie Leibovitz. Anche lei, insomma, in qualche modo spesso ricordata perché legata per tutta la vita fino alla sua morte alla scrittrice Susan Sontag, e quindi insomma una due personaggi straordinari che appunto si sono trovati, hanno passato tutta la vita insieme. Annie è stata una fotografa straordinaria soprattutto della musica. Stiamo parlando di una fotografa che ha cominciato a fotografare diciamo a metà degli anni 60, ha una storia incredibile, andava in giro ai concerti perché lei appunto era una di quelle che stava ai concerti con la sua Leica e ha cominciato a fotografare insomma i concerti dei Rolling Stones, insomma quelli dove anche succedeva un casino da un punto di vista proprio del pubblico. E questa mostra per la quale tra l'altro insomma io ho fatto anche didascalia per l'esibizione di questa mostra in Italia, quindi insomma ero particolarmente legata e la conoscevo anche abbastanza bene, quindi le foto me le ricordavo benissimo. È una bellissima mostra, una bellissima raccolta di un po' di tutto quello che era in quel momento, insomma un po' di anni fa, stiamo parlando intorno al 2004-2003, uscita insomma, andata in giro in tour per l'Europa. ed era una bellissima mostra in cui lei ritraeva quelli che secondo lei, quelli e quelle che secondo lei erano i personaggi più rappresentativi della musica americana. Quindi si trovavano, che so, i White Stripes, che erano all'inizio della loro carriera, e poi c'era Johnny Cash con la figlia, con, insomma, era molto molto interessante. Pensando a questo, riflettendo su questo, ho pensato a un'altra foto famosa di Annie, che forse non tutti sanno che era la sua, che era quella, che la famosissima foto che ritrae John Lennon e Yoko Ono, lui nudo rannicchiato intorno a lei e lei vestita invece, che è una foto anche abbastanza, diciamo, particolare, nel senso che è stata scattata praticamente poco prima che Lennon fosse ucciso. E in quei giorni, è molto importante ricordarlo secondo me, in quei giorni Yoko Ono stava registrando il suo album e John Lennon stava registrando per lei delle chitarre, tra l'altro delle chitarre molto interessanti. Adesso vedrete, insomma, la mia connessione è appunto Yoko Ono, voglio farvi ascoltare una delle primissime cose che uscirono in quegli anni, e praticamente questa foto scattata l'8 dicembre 1980 in qualche modo è il collegamento con lei. Ci sono le chitarre di John Lennon, ma c'è una Yoko Ono che è stata un personaggio, si può dire, forse più bistrattato, la donna più bistrattata. Dopo di lei c'è solo Courtney Love, immagino, no? Nella storia del... Perché appunto... Odiatissima dai fan. Odiatissima dai fan di quella che era la vita precedente, insomma, del suo compagno. E in qualche modo, diciamo, anche da questo punto di vista, un po' quasi sempre, diciamo, giudicata con molti pregiudizi, mai giudicata veramente per quello che è stata. In realtà Yoko Ono poi ha avuto una carriera strepitosa, ha fatto delle cose... prima e dopo John Lennon. Sia prima. Ma senza, anche prima di John Lennon, dopo, lei era già... Ma in qualche modo, anche un po' per sfatare questa cosa, insomma, questo mito, se voi ascoltate le chitarre che aveva registrato John Lennon poco prima di morire, lui aveva ancora addosso, penso, insomma, alcuni dei nastri che aveva registrato quando è stato ucciso, quando è stato sparato lì nel loro appartamento, e se ascoltate le chitarre che ha registrato per Yoko Ono, quindi per il suo lavoro, per il suo progetto, secondo me capirete anche che in qualche modo la sua influenza su questo musicista era un'influenza che lo portava a esplorare strade completamente diverse. Quindi questa è Yoko Ono e il pezzo si intitola Walking on Thin Ice. tried to walk across the lake. Of course it was winter, when all this was ice. That's a terrible thing to do, you know. They say the lake is as big as the ocean. I wonder if she knew about it. Ed eccoci, questa era la lunga Walking on Thin Ice di Yoko Ono, appunto, che insomma... Comunque lei è ostica, no, nel senso musicalmente, che musicalmente, anche vocalmente in realtà, perché poi ha queste, anche qualche tradizione, penso, giapponese, per cui sì, già da fastidio tutto il personaggio che gli hanno montato sopra. Tra l'altro ricordavamo, diciamo, mentre andava il pezzo, che questa canzone che sta nell'album, che dovrebbe essere Season of Glass, che appunto è stato pubblicato poi poco dopo, un anno dopo, qualche, sì, insomma, mezzo anno dopo che avevano ammazzato Lennon, che ha quella copertina che scatenò anche lì una marea di critiche, perché erano gli occhiali, i famosi occhiali tondi spaccati e insanguinati, vabbè, insomma, di Lennon. Sì, come se lei stesse sfruttando, sì, diciamo che lei, sì, vabbè, questa è la cosa che difese, diciamo che lei penso un muro di gomma, perché so anni per qualsiasi cosa, ma pure per la sua arte, perché alla fine lei è una di quelle artiste abbastanza un po' come Laurie Anderson, non è che ha fatto solamente musica, anzi faceva performance come molti negli anni 70. No, poi è anche un artista che è capace di diciamo rigenerarsi, anche di diciamo, come si dice, acchiappare le nuove generazioni, no? Per esempio ha fatto delle cose, ha fatto un pezzo carinissimo con Peaches, per esempio, oppure ha fatto delle performance live con Lady Gaga, quindi comunque e tra le altre, insomma, sto citando quelle più recenti, quindi insomma non è sicuramente un artista che in qualche modo sa anche reinventarsi, e appunto, ma poi che gli rimbalzano e invece ha un certo, per certi artisti è un po' appunto quell'underground di riferimento che non diventa mai famoso, ma che ispira e ha ispirato tantissimi artisti. Infatti se uno va a cercare i titoli, anche titoli di canzoni che hanno Ono, Yoko Ono, o canzoni che hanno dentro Yoko Ono, come insomma, come in qualche frase, sono tantissime. Per i suoi 50 anni, tra l'altro, Lennon stava provando a fare, ma lo ammazzarono prima, un disco tributo che poi uscì comunque, che era Every Man Has a Woman, e in questo, tra l'altro, ne sono usciti due dischi tributi a lei. Uno era questo, che poi uscì appunto per i suoi 50 anni, che era quello che stava pensando Lennon, che poi finirono comunque, anche se lui appunto non riuscì a vederlo realizzato perché gli spararono prima. E come dicevi tu, ce n'è un altro che invece è uscito nel 2007, dove ci cantano un po' tutte delle nuove leve, da Cat Power a Peaches, quindi che omaggiano, vabbè, le tigre. Noi le mettiamo tantissimo, le nostre ascoltatrici forse se la ricordano, Sister or Sister, che appunto è... Ed è bello trovare loro connesse anche a parte della musica, che magari è lontana da quello che poi è stata la loro scena, quello che hanno fatto. Esattamente, infatti da questo sperimentale, diciamo che tra un po' tra Laurie Anderson e Yoko Ono, in qualche modo ci può anche stare, perché poi il periodo artistico è quello. Cambiamo completamente genere, perché la mia connessione In realtà è Roberta Flack con una canzone che conosciamo sicuramente tutte, perché è una di quelle canzoni che di, le cover si sono sprecate, che è Killing Me Softly with E-Song, che l'hanno da noi, probabilmente è famosa perché l'hanno cantata i Fugees, è diventato il singolo che scalò le vette a proposito di The Chart. senza, ma già l'originale aveva scalato le vette, sì. Diciamo che andarono a colpo sicuro quasi, perché chiaramente presero una canzone che il cui disco Killing Softly era arrivato alle prime posizioni quando uscì nel 73-74, la canzone pure. Stiamo parlando insomma di un artista che è nata nel 39 nel North Carolina, e la madre era un organista nella chiesa battista. E si sente un po', nella sua ispirazione musicale. Sì, perché lei è cresciuta con Malaya Jackson, ovviamente, con poi tutti quegli artisti afroamericani che hanno portato la musica, mischiandola anche appunto poi alle religioni e cose altre. Ha iniziato a suonare anche lei, come al solito, quelle famose cose molto presto. Aveva 9 anni quando già suonava il pianoforte, poi ha fatto 200 milioni di scuole, insomma, alla fine l'hanno notata, sì, perché vabbè, inutile vi racconto tutta la sua biografia. No, è bello, cioè 200 milioni di scuole significa che poi insomma è una culturata, non no, è? No, nel senso che ha studiato tanta musica, certo. No, perché tra l'altro questa cosa qua da noi è una cosa che mi ha colpito facendo The Chart, soprattutto quando andiamo a toccare queste grandi artiste. Che donne studiano? Che le donne studiano, ma questo non... No, che a differenza, che se non voglio fare il discorso signora mia, però è anche vero che certe artiste di questo spessore, che hanno poi 40-50 anni di carriera alle spalle, che sono tanti e sono notevoli, non sono le meteore, che per carità nella storia della musica sono sempre state le meteore, però queste artiste che poi rimangono nella storia, nei tempi eccetera, sono tutte artiste che in realtà hanno tanto poi coltivato il loro talento, perché non è che stiamo parlando di persone talentuose, ma che poi hanno studiato e studiavano tanto, hanno sempre studiato tanto, hanno fatto tante scuole d'arte. Anche Susan Vega stessa aveva fatto la, certo, scuola. Cosa che oggi invece andiamo al talent show, però non voglio essere polemica. È fatto. Ed è fatta, però poi duri un anno e non è che ti puoi anche non domandare perché. Invece Roberta Flack dura, ha una carriera lunghissima, tanto che i suoi pezzi a 40 anni di distanza, cantati da qualchedun altro, riarrivano primi in classifica. Sì, esatto. E noi ce la ascoltiamo proprio nella versione originale di quella canzone che forse non tutti hanno mai ascoltato dalla, insomma, dalla viva voce della sua realizzatrice prima. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. but he just kept right on strumming my fame with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang as if he knew me in all my dark despair, and then he looked right through me as if I wasn't there, and he just kept on singing. Questa era la bellissima Roberta Flack. Si deve dire che veramente, poi di ascoltare l'originale, perché devo dire che io, insomma, sono arrivata quando c'erano già le cover, quindi no, certo, l'ho conosciuta da siamo come giovani te. No, cioè giovani, però insomma un po' più giovani di questo album, nascevamo in quegli anni, quindi insomma no, siamo più giovani, dai, perché comunque almeno io sicuro, io sono del 73 e mi sa che l'album era del 73 4 74. Invece stai dicendo una cosa interessante, dilla, che mi piacerebbe che le nostre ascoltatrici stanno ascoltando The Chart. Questa è la decima puntata, siete in ascolto di Radio Onda Rossa 0649750. Se ci volete contattare, di questa cosa era bellissima, che praticamente quando venne notata da Les McCown mentre suonava in un nightclub, cioè in a Washington, ma allora gli organizzò questa audizione per l'Atlantic Records e praticamente lei cantò 42 canzoni in 3 ore per il produttore Joel Dorn, che si convinse poi dopo 42 canzoni volevo cioè, vedere pure se faceva storie, scusa Allora, forse è brava, e allora la chiamarono per nel novembre del 68, ne registrò altre 39 canzoni in 10 ore che diventarono poi 3 mesi dopo il suo primo disco, che arrivò primo in classifica, vendette quasi 2 milioni di copie solo negli Stati Uniti, stiamo parlando della chart americana Billboard, poi Billboard, e poi dischi d'oro, e con questa canzone vinse il premio come miglior voce del 74, poi come prima canzone, primo il disco, primo tutto, ha vinto tutto, ragazzi, ha vinto tutto, comunque cioè, secondo me ha vinto tutto, se in 10 ore ha registrato 39 pezzi ha vinto tutto, comunque cioè, per me ha già vinto, e per avere il contratto all'Atlantic Records aveva cantato 42 canzoni in 3 ore. Cioè, veramente. Altro che talent show, ragazzi. Qua, cioè, ce la dobbiamo sudare sul serio. E non solo, ma aveva anche a metà degli anni 70 preso parte a un tour itinerante organizzato da Bob Dylan, che mi dà lo spunto per la mia connessione, che sarà Scarlett Rivera, che forse non conoscete tutte quante, vi racconto chi è. E questa signora della musica e del violino elettrico è diciamo presente, forse qualcuno di voi a casa avrà l'album Desire di Bob Dylan, che è uno degli album migliori di questo artista, in cui il suo violino dà a questo album una caratteristica, un suono, un veramente una connotazione assolutamente precisa e straordinaria. A questo tour itinerante che appunto Dylan aveva organizzato raccogliendo delle musiciste e dei musicisti che appunto facevano parte, che gli piacevano moltissimo, tra cui John Bates, Roberta Flack, prende parte anche Scarlett Rivera. Lo dobbiamo ricordare però, perché le storie della musica rock sono bellissime. Perché pare che lui l'abbia incontrata per strada al Greenwich Village con il suo violino dietro. Sì, esatto. No, è la lei lo racconta in un'intervista, racconta esattamente come è successo. Lei stava andando alle prove, un pomeriggio della sua band, e a un certo punto un incrocio tra due strade, si ferma una macchina piuttosto grossa, apre il finestrino una tipa e dice: ma lo suoni davvero quello che stai portando, il violino? Dice: sì, sto andando alle prove, veramente. E le dice: guarda, ci dai il numero, che insomma vorremmo farti fare una prova con noi? Lei si affaccia al finestrino, vede che c'è Bob Dylan, che già era un po' noto, cioè, alla guida, e dice: guarda, veramente era noto, sì, Bob, esatto, e dice: guarda, veramente non mi andrebbe tanto di darti il mio numero, così le dice, e poi sto andando alle prove, già suono, quindi non facciamo un po' la difficile. Poi detto: però se volete mi potete dare un passaggio. E quindi si fa dare un passaggio alle sue prove, intanto che fanno questo viaggio in macchina insieme. Diciamo viene convinta a fare una prova in studio, alle prove invece di Bob Dylan, della band che stava mettendo su per questo Rolling Thunder Review, che appunto sarà poi questa specie di tour che dall'autunno del 75 al maggio del 76 girerà l'America in una sorta di, diciamo, tour circense. Loro si travestivano, c'era una situazione molto anche di vita assieme, di condivisione degli spazi e dei tempi durante le pause appunto delle esibizioni. E quindi Scarlett partecipa a questo tour e partecipa anche alla registrazione di Desire. In realtà Scarlett Rivera, poi diciamo non molto nota, è un'appassionata di musica celtica, quindi soprattutto lei incide e registra musica celtica, new age e world music. Intanto vi faccio ascoltare qualcosa di lei e poi insomma ci direte se valeva la pena di fare questa connessione. Lei si chiama Scarlett Rivera e il pezzo che ho scelto si chiama Frenzy. questa era Friends di Scarlett Rivera dall'album del 1978. Beh, che si intitolava Scarlet Fever. Qualcuno ci ha fatto gli squilletti, quindi non ci sono solo i Jethro Tull. Lei suonava il violino, ovviamente, perché con, wow, con tanto di wah wah come sentivamo. Yuhu! Sì, sì, un po'. Vabbè, io non sono una grandissima amante della musica celtica, ma immagino che dal vivo, come dici tu, crei una bella atmosfera di condivisione. Vabbè, ci sta molto energica. Wow, yuhu! Vabbè, insomma, Scarlett Rivera. Tra le altre cose, appunto, facendo anche lei parte più o meno di quei musicisti che suonano più che altro accompagnando qualcun altro più che da solisti, e ha lavorato anche con Didi Bridgewater. Ora, purtroppo, a me viene da dire veramente purtroppo, da noi Didi Bridgewater è conosciuta solo e soprattutto perché, cioè è diventata famosa quantomeno, perché andà, e siamo in tema, guardate quanto siamo nell'attualità, perché andò a Sanremo, più di una volta andò a Sanremo e da lì venne conosciuta dal grande pubblico italiano e diventò in qualche modo famosa anche qui. Non vi dico che cosa ha ricantato perché mi rifiuto proprio, perché tra l'altro ha cantato una delle canzoni di un artista che io ho depennato, sta nella mia lista nera nei secoli dei secoli, se l'ho andato a cercare scoprite subito chi è. E lei è considerata una delle eredi delle grandi voci del jazz, è nata a Memphis, dove è morto Elvis, è nata a Memphis nel 1950, la sua carriera, anche la sua, è lunghissima, è iniziata negli anni 70, in realtà è iniziata con grandi jazzisti, da Dizzy Gillespie a Max Roach a Sonny Rollins, quindi non è propriamente che ha cantato esattamente... È una di quelle, diciamo, voci... che Sanremo non è stato l'apice della sua carriera. Ecco. Sanremo non è stato l'apice della sua carriera, però a un certo punto lei si è trasferita dall'America in Europa, a Parigi, e ha passato una serie di anni, diciamo, nel continente, in quell'occasione comunque ha cominciato a girare l'Europa e lei canta di tutto. Ovviamente è una di quelle voci che se gli dai la lista della spesa dici un mamma. come Mina, vabbè, come tantissime altre. In realtà poi particolarmente apprezzata la sua interpretazione del repertorio di Billie Holiday, e proprio in seguito a questo lei sono tantissimi anni che a Broadway recita in un musical ispirato alla vita di Billie Holiday, che è Lady Day, che è andato in scena fino al Natale scorso con grandissimi successi. Addirittura la Huffington Post americana dice Didi Bridgewater è Billie Holiday, che mi sembra un po' eccessiva come affermazione, però immagino nella sua interpretazione riesce a restituire tanto. Noi invece ci ascoltiamo Billie Holiday, che in realtà ho scelto io un pezzo che piace a me, perché ovviamente anche lì si può andare a prendere centinaia di cose, ma il pezzo che ho scelto è uno dei pezzi che amo di più, è che nel disco che io, Lady in Satin, è il primo, è la prima canzone, c'è quell'attacco che ti fa proprio fare lo switch, cambi proprio, cioè boom. Quando lei dice I'm a fool, yeah, basta, cambia proprio i capelli. Tu c'hai questa reazione al jazz e a certe voci del jazz, così ti cambiano l'umore. Ma mi cambiano l'umore, sì. Meglio dello Xanax, direi. Ma sicuramente la musica è meglio di qualsiasi cosa. Quindi consigliamo Billie Holiday and I'm a fool to want you al posto dello Xanax la prossima volta che state un po' prese dall'ansia. Ditemi se non funziona, va, ascoltatela. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then would come the time when I would need you. And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to warn you. Pity me, I need you. It's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Without you. Dai, visto? Guardate che facce diverse che... cioè, sorridiamo, in effetti sorridiamo. Siete in ascolto di The Chart, questa è la puntata numero 10. Ve lo dico piano piano il blog, perché poi dite sempre io vado veloce, perché... Allora vi dico il blog dove potete trovare il podcast, le playlist e anche i collegamenti, perché noi cerchiamo di raccontarvi un po' tutto il percorso che ci ha portato a trovare un artista piuttosto che un'altra. E tra l'altro sul blog trovate quello che non riusciamo a fare qua, cioè le foto, i video, quindi a farvi anche vedere delle cose. Sì, diciamo che queste sono le cose buone di internet, quindi le sfruttiamo al massimo. Quindi cerchiamo di condividere con voi il più possibile di quello che è stato il processo che poi ha portato alla puntata, ed è Women Chart, si scrive WOMENCHART.wordpress, che forse conoscete, .com. Allora, Billie Holiday effettivamente mi ha messo in difficoltà, nel senso che cioè si potrebbe far dire qualsiasi cosa, arrivare in qualsiasi punto forse del globo, perché è una delle artiste più amate, più anche ricantate, eccetera eccetera. Io mi sono andata facile in realtà, perché c'è una pellicola di qualche anno fa che cerca di raccontare un pezzetto della storia, insomma a suo modo, la storia soprattutto degli inizi della carriera di Billie, che è Lady Sings the Blues, che era interpretato da un'artista anche lei insomma straordinaria, che si chiama Diana Ross. E allora Diana Ross insomma ha una carriera lunghissima, ha cominciato con le Supremes, con cui tra l'altro ha lavorato, insomma ha inciso singoli, perché poi all'epoca lei ha lavorato con loro dal 58 al 60, era insomma una voce delle Supremes, quindi 2 anni alla fine soltanto, ma si sfornavano singoli come dicevi tu, insomma aiosa, e in soli due anni con le Supremes sono arrivate 12 volte prime in classifica. Hey, cioè una roba proprio, cioè ogni settimana c'era un singolo praticamente, con insomma canzoni straordinarie veramente, come che ne so, Baby Love Me, Love Stop, In the Name of Love, You Can't Hurry Love, insomma Reflections, Love sicuro, Love c'era tantissimo, insomma veramente una carriera straordinaria, e anche una carriera straordinaria da solista. No, ma io ce l'ho un aneddoto che tanto va bene, sì, vai. Perché sta nel mezzo della connessione anche successiva, e a un certo negli anni 60 le Supremes andarono a cantare a una serata di beneficenza a Londra, dove c'era anche la corte reale, quindi compreso re, regina e parentame vario. Lei praticamente aveva una sua canzone. Vabbè, il concerto andò bene, fu tutto tranquillo. Poi loro riuscirono per i bis. Lei aveva una canzone in cui iniziava, aveva un piccolo monologo che faceva. In realtà le sue due compagne in quel momento si spostano indietro, la rossa arriva davanti al microfono da sola, la musica si ferma e la cantante dice queste parole: non ho molte occasioni di parlare a persone potenti come chi mi sta davanti oggi. Io, come vedete, sono nera, mentre voi siete bianchi. Io canto e voi mi ascoltate, poi quando tutto è finito ce ne andiamo insieme dalla sala. Ci sono posti nel mondo, compreso alcuni stati del mio paese, gli USA, dove neri e bianchi non hanno gli stessi diritti, non possono neanche uscire dalla stessa porta. Vorrei che ci pensaste quando tornate a casa, nelle vostre case stasera. Mentre la Ross si allinea alle altre due sue compagne, nella sala cade un silenzio imbarazzante, quando qualcuno dalle ultime file comincia a battere timidamente le mani e altri lo seguono. In breve tutta la platea, compresi i membri della famiglia reale, si alza in piedi e prolunga l'applauso per due minuti consecutivi. Diana Ross ringrazia ed annuncia il brano successivo. Alla fine del concerto le Supremes vennero salutate e ricevute dalla regina madre. La regina madre, che era anche la protagonista dell'ultima fotografia che annunciava la nostra puntata, dobbiamo dirla, la ringraziamo, sì, così pubblicamente. Esatto, perché la regina madre ascolta la nostra chart. Perché non lo sapete voi, ma la regina madre ascolta le chart, non lo dice a nessuno perché insomma non si può dire, ma insomma in realtà la ascolta. Però è la storia di quel pezzo di storia della musica afroamericana che ha fatto la battaglia. A me piace tanto ricordare questa cosa, i microfoni, magari uno non ci pensa, invece loro erano anche tantissimi di loro, soprattutto gli afroamericani, erano impegnati e avevano, utilizzavano quell'occasione di aver raggiunto la fama e la notorietà, di essere un po' più tra virgolette protetti, per poter dire certe cose per tutti gli altri. Per questo sono stati rimasti tanto amati anche nella comunità. Non solo, ma appunto molto spesso ci dimentichiamo del potere politico della musica, invece ce n'è tantissimo, in tantissima musica, quindi insomma noi la usiamo anche per questo, da questi microfoni. Insomma, la mia connessione ve la faccio breve tra le tantissime cover che avrei potuto avrei potuto riagganciarmi, eccetera eccetera, che ne so, è stata rifatta da Aretha Franklin, Shirley Bassey, Amy Winehouse, addirittura le Spice Girls, sì. Ma anche in Italia Giorgia, Amalia Gray hanno fatto cover insomma dei pezzi di Diana Ross. Veramente è un repertorio sterminato. Ma a me è piaciuta questa idea che ci fosse un trio neozelandese di donne, tre donne, tutte e tre musiciste, che hanno pensato a lei per inventare il loro nome. Loro si chiamano le Diana Rose. C'è scritto Roz, che in italiano fa ridere perché Roz sembra rozzo, no? Invece in inglese non suona così, è Rose, che si ispirano loro non solo per il nome, ma anche proprio per le immagini, perché usano sempre delle immagini di Diana Ross per i loro video, per insomma i logo delle loro cose, quindi sono molto molto divertenti. Tra l'altro fanno cose totalmente diverse, quindi ascolterete, fanno una sorta di noise rock molto molto interessante. E quindi dal loro album che si intitola Numbskull di un paio d'anni fa, vi faccio ascoltare Welcome By. Guarda, per te le sfumo. Solo perché lo so che non ci stai tanto dentro col noise, con, insomma, col rumore. No, guarda, io mi sono fermata a Kim Gordon e sono cute e basta. E comunque è un noise molto molto e non pulito. Ti avevano educato allora, perché queste erano le Diana Rhodes e, insomma, erano il mio contatto con invece il precedente Billie Holiday, quindi era un bel cambiamento, era fondamentalmente un bel cambiamento. Sì, sì, sì. No, ma brave, brave. Lei sembrava che aveva inciso la voce in un'altra città mentre loro suonavano. Si chiama lo-fi, è un po' così, si portano queste registrazioni un po' così. In cui la voce si sente sotto, però è voluto, lo sappiamo che è voluto. Insomma, per tornare invece al loro nome, io ovviamente invece dal loro nome sono partita, perché chiaramente la prima cosa, a parte che dona il messaggio maschile 7 volte, non è un errore, non è un errore, sono le Diana, perché lei immaginava io andassi a cercare Diana Ross. Sì, perché sai, c'è il correttore automatico, perché voi sapete che noi ci mandiamo per tutta la settimana, insomma le due settimane che ci insomma che passano tra una puntata e l'altra, ci mandiamo soltanto i messaggi con l'artista senza spiegarci le connessioni eccetera. Quindi, avendole mandato da Diana Rhodes con due Z, ho pensato, penserà che sia un errore, cioè fondamentalmente penserà che in realtà era Diana Ross, no? Quindi ho insistito. Sì, ci teniamo, perché quindi quello che voi ascoltate, il live che voi ascoltate, cioè ovvero The Chart, ci serve anche a noi per raccontarci perché e come siamo arrivate da un'artista all'altra, perché... Per questo c'è la suspense, per lasciare la suspense a tutti, ascoltatrici e noi comprese, così ci divertiamo di più in realtà. E quindi ci mandiamo solo le connessioni. Insomma, io tu mi hai fatto tutte queste, però io a Daniele Ross ovviamente sono arrivata, nel senso che giustamente sono passata da lì. Ma sono passata da lì e non mi sono fermata lì, ma sono arrivata a Erykah Badu. E lì per lì, sentendo il suono di appunto queste tre artiste, uno anche dice, vabbè, ma Erykah Badu, la mia connessione è stata la Motown. Oh, yeah. Okay. Che penso che era un modo anche carino per raccontare la storia di questa etichetta musicale leggendaria, comunque, per anche lì, per gli appassionati di musica e non solo, come anche le nostre ascoltatrici. Vi ricordo appunto a The Chart scopriamo e raccontiamo tante cose che, insomma, riguardano la musica. La Motown è una etichetta discografica fondata nel 1959 da Barry Gordy. Ed è stata ed è quella che, diciamo, la voce più autorevole ancora oggi nel mondo per il soul e il rhythm and blues. Se è un disco, se non sapete niente di rhythm and blues e vi volete comprare un disco, se è un disco della Motown, andate sul sicuro. Questo dice la storia della Spogliate musica. Spogliate il catalogo della Motown. Dove ci stava Marvin Gaye, Stevie Wonder e le Supremes, che sono tra i primi gruppi che portarono il sound della Motown in giro per il mondo. E questa capacità di raccontare il soul in maniera più leggera è che ha fatto il giro del mondo. E di soul restiamo a parlare, perché poi appunto Erykah Badu è altro che non è una cantautrice molto giovane, cioè giovane comunque anche musicalmente giovane, anche se adesso ha all'attivo circa 6-7 dischi, è uscita nel 1997 ed è l'esponente, poi vabbè, quello, qua lo sappiamo che i critici musicali si divertono parecchio, è l'esponente, è una delle esponenti più in vista di quello che viene chiamato oggi New Soul, Neo Soul o New Soul, insomma mettilo un po' come vuoi. Comunque è una di quelle artiste che ha coniugato la tradizione e l'anima, quindi appunto il rhythm and blues del soul con delle sonorità più moderne. Ci ascoltiamo uno dei miei primi pezzi preferiti, che è Apple Tree, e che tanto voi sentite già abbastanza, perché ogni volta che sto al mixer lo metto. Quindi però è bello, mi piace Erykah Badu. It was a stormy night, you know they can't wear the lightning strike. Però ve l'ho messo nella versione al vivo. Ooh, you, the night was long, the night went on, people cooling out to the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I see, I picked my friends like I picked my fruit. Again, he told me that when I was over here, you I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. Working pleasing me goes, I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flash free like a willow tree. Do-ee, do-ee, do-ee. 'Cause I'm planting seeds, so I reap what I sow. You know, my side keeps moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. You see, I picked my friends like a pick of fruit. And Gandhi told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. Can't stand a motherfucker trying to get what I got. I work and please the egos, I can't please you. And ask why I do what I do. My soul flash free like a willow tree. If you don't wanna be down with me, you just don't wanna be down. Over here, I want y'all to say, oh my, my, my. Come on. Oh my, my, my. On this side, y'all say, oh my, my, my. Voilà, che bella questa versione live. Tra l'altro cortissima rispetto agli altri pezzi che abbiamo messo. Meno male che siamo in un ritardo. Siamo in un ritardo clamoroso. Questa è Erika Badura, la tua penultima scelta, l'ultima scelta di questa giornata. Non correre, che sembra l'autorizzazione. Hai ragione, che c'è, vero. Hai ragione. Ok, no, era per guadagnarci. Ci ha lasciato per guadagnarci 10 minuti. Esatto, per guadagnarci un po' di tempo. In realtà la mia connessione era legata al fatto che Erika Badu ha vinto 4 Grammy Awards, che sono dei importanti premi musicali in America nella sua carriera, quindi ben 4, non è una roba da poco, non sono molte quelle che l'hanno fatto. E quest'anno invece la mia connessione è che come miglior singolo dell'anno l'ha vinto una giovanissima 17enne neozelandese, anche lei di Auckland, classe 1996, che si chiama Ella Maria Leni Yelich O'Connor, in arte Lord. Meno male perché era difficile da pronunciare e non è era un nome molto radiofonico. Lord è appunto con questo album uscito nel settembre dell'anno scorso, si chiama Pure Heroine, ha avuto praticamente un successo planetario ed è una ragazzina, cioè, 17 anni, non si può dire ragazzina, non è un'offesa, sì. È una roba proprio vera che non la manda a dire a nessuno, insomma, oltre a fare dei testi molto molto interessanti e molto, diciamo, forti, molto intensi, devo dire che tra le altre cose fa anche, cioè le dice anche, le racconta anche nelle interviste. In particolare lei ha raccontato in un'intervista, dice, ve la cito proprio testualmente: mi piace la musica pop dal punto di vista sonoro, ma sono una femminista e il tema della canzone Come and Get It, che è la canzone di Selena, come si chiama, Selena Gomez, può essere, insomma, è una di queste artiste pop un po' così, è quando sei pronto vieni a prenderlo da me, è la traduzione. Del testo di questa canzone. E lei dice: sono stanca che le donne vengano ritratte in questo modo. E ancora racconta in questa intervista: penso che molte donne, perché lei se la prende un po' anche con Lana Del Rey e alcuni pezzi che lei aveva fatto, nonostante, dice, mi piace molto la musica, cioè la loro musica, la loro musica pop, io l'ascolto tantissimo, non sto criticando la qualità delle loro cose, sto criticando la qualità dei testi di queste donne. E dice: penso che molte donne di questa industria non stiano facendo il loro meglio per le ragazze. Ho letto interviste dove certe grandi star dicono: non sono femminista. Beh, non è di questo che si parla. Lei è brava parlando di Lana Del Rey, ma ho ascoltato il disco e ho pensato tutto il tempo che non fosse proprio salutare per le ragazzine ascoltare certe frasi come